Sei voluto sognare, sognare con me. Se ti ho chiesto di amarmi, non farlo perché tu sei fuori di me. Io vivo nella luna. Ho pensato per poco di vivere in te, di poter finalmente parlare con te. Ma mi sono sbagliato e perdonami se penso a quando io vivevo sulla luna. Io so capire i gatti e le stelle, ma non so darti stare con me. Se hai creduto di avere qualcosa da me, se hai creduto di avermi soltanto per te, dimmi addio, perché io torno nella luna. Qualcosa da me, se hai creduto di avermi soltanto per te, dimmi addio, perché io torno sulla luce.